Allora, questo per me è un disco bellissimo. La triste circostanza della scomparsa di Carla Bley. Sono andato nel mio immenso mobilone di CD e ho ritrovato, e veramente ho detto: ma quanto è bello! Ti è mai capitato, quando non ascolti un disco da un po', dire: ah, però questo è ma sai di più? Che dischi magari da tempo avevo detto: ma che non mi piace, quindi l'ho messo da parte, riascoltandoli, però come ero ignorante. Capita anche a un maestro come Alfredo. È come il cibo, ogni 5 anni bisogna riprovare le cose perché cambiano i gusti. Allora, non riuscivo a toglierlo dal lettore, la formazione è 4x4 ed è veramente una grande forza, questo lavoro, dove Carla Bley si esibisce tendenzialmente all'organo Hammond e il resto della formazione è composta anche dall'ex compagno al contrabbasso, al basso elettrico Steve Swallow, e poi Shepard al tenore. Andy Shepard. Andy, non mi ricordavo il nome, Andy Shepard. Riunito. Bravo, bravo lui. A me piace, insomma. Dai. Beh, poi molto grave merito, è messo insieme questa band di 100 sassofonisti, di ragazzi, vecchi, giovani, donne, che ha girato tutto il Regno Unito con dei concerti da lui diretti. Grande. Bologna Jazz Festival, Now is the Time, come il brano di Charlie Parker. Noi iniziamo la presentazione, siamo media partner sia del Jazz Club Ferrara che del Bologna Jazz Festival, Radio Città Fuggico, la radio del jazz con Jazz Live. Inizia questa presentazione in prima puntata, daremo voce a linee generali condotte da Francesco Bettini, direttore artistico, in questa puntata del 20 ottobre. La prossima puntata avremo il presidente Federico Mutti, con il quale vorrei iniziare questo intervento in diretta per riportare il suo entusiasmo. Pare che, insomma, ci sia già del sold out, il ritorno in biglietteria pare dia motivo di grande entusiasmo, e questo, insomma, è una bella cosa, Alfredo. Certo, per quanto riguarda il jazz, dicevano anche altri luoghi di cultura, che di cui non faccio il nome, però che dopo il Covid c'era una disabitudine a frequentare i luoghi pubblici che aveva creato dei cali di... invece c'è una controffensiva. Dai, la controffensiva che funziona, che piace, questa che cosa piace. Le sedi, ovviamente, parallele, parleremo del gemellaggio anche con una nuova sede che è quella di Forlì, il binario 69 che si conferma, i club manterranno la loro originale forma pur essendo ci sarà anche un DJ incredibile di là, binario. Incredibile, bravissimo, oh. grande Willy tutti vogliono sentire Willy al binario. Giovedì si inizia, anche se è al di fuori del programma, però sarà un'introduzione. Grazie Alfredo per questo spot. Noi torniamo. Mi devi 5 euro. Lo so, beh, direi che sei anche a buon mercato con le cifre che girano di questi tempi. Ma per quanto riguarda Francesco, l'intermezzo musicale sarà dedicato agli appuntamenti che si terranno nei teatri, grandi nomi, cioè i concerti, cioè quelli che organizza direttamente il festival, esatto. Perché altri sono tra virgolette organizzati dalle singole realtà in collaborazione, però proprio quelli che fa direttamente il festival sono i concerti, che sono nomi importanti. Quest'anno, insomma, tutti gli anni in questo caso, insomma, troviamo, oltre che un'eterogeneità, anche veramente dei nomi di spicco. Oltre che il binario, ricordiamo il Ferrara Jazz Club, ricordiamo anche il Locomotive, insomma, come ho detto, la particolare linea di ogni sede resta comunque di appartenenza del palco scenico dove suoneranno gli artisti sempre legati al Bologna Jazz Festival. Iniziamo quindi ad ascoltare le parole di Francesco, che porterà linee generali del Festival Bologna Jazz 2023. E si comincia la nuova edizione 2023 Bologna Jazz Festival. Siamo con il direttore artistico che già conosciamo tra Ferrara e Bologna, Francesco Bettini, e subito iniziamo questa conversazione con quali novità e quali percorsi avrà Bologna con il jazz per questa edizione. Abbraccia tutto il mese di novembre, intanto, perché cominciamo il 3 e concludiamo il 27. È Bologna, perché è Bologna, diciamo, il territorio dove la stragrande maggioranza del festival va a comporre questo lungo palinsesto, ma c'è un'estensione geografica anche, come tutti gli anni, alla città di Ferrara, di Modena, e al gemellaggio con il Festival Jazz di Forlì, e tante incursioni anche nell'area metropolitana della città di Bologna. Poi novità, le novità sono che fondamentalmente la rete di partner che vanno a convergere nell'edizione di quest'anno è sempre più ricca, vita, non solo appunto per l'estensione geografica, ma anche per i tanti soggetti coinvolti. E ci sono, come al solito, tantissime produzioni dirette di Bologna Musica, associazione diciamo che determina il Bolognese Festival, ma anche di tanti soggetti che vanno a condividere la schedule di quest'anno, tanti club, quelli diciamo di ritrovo più giovanile, che occupano uno spazio sempre maggiore, più forte all'interno della programmazione, dove c'è un pubblico nuovo che si affaccia al jazz, ed è assolutamente sensato dare quanto più possibile visibilità a quanto organizzano. Mi riferisco a luoghi come lo Sghetto Club, il Bilario 69 e il Locomotive, stanno in territorio appunto bolognese, e mentre altri partner storici sono confermati, come per esempio la Cantina Ventivoglio, Camera Jazz Music Club, e poi spazi anche nuovi dove approdano le produzioni del festival, non solo i 5 concerti in teatro all'Arena del Sole, al Duse, al Teatro di Vario Manzoni e all'Unipol Auditorium, ma anche la collaborazione che continua con la Torre Unipol, che continua nel senso che durante l'anno organizziamo le cose in Torre Unipol e ce n'è anche una nel periodo del festival, un concerto che faremo in Sala Borsa, che è collegato anche alla chiusura di una mostra delle immagini coreate del festival, che ci sarà la borsa proprio dal primo all'ultimo giorno. Conosciamo di più è la voce di John Zorn. Lui è John Zorn, il sassofonista che stiamo ascoltando. Ho voluto portare questo disco in quanto presente anche ad Angelica, ma soprattutto perché la chitarra in contrappunto, seppur sottesa, è di Bill Frisell, che sarà in trio al Bologna Jazz Festival il 21 novembre e sarà al Teatro Duse. Ho voluto portare questa strana, ma secondo me bellissima collaborazione con John Zorn, George Lewis, in trio e completo. La musica per Lulu. Music for Lulu, News for Lulu. È una rassegna stupenda. Sì, quando riprendeva le vecchie song degli anni 50 e 60, le ritrattava Zorro a maniera sua. Sì, ma anche con un grande gusto, non ma solo no, con le sue difficoltà. Ecco dei grandi musicisti. Sì, questo. E qui Frisell, cioè, questo contrappunto è. Ah, è perfetto, notevole. È elegantissimo. Eccolo! sul finire con questo volo che porta la firma Zorn, ma per quanto riguarda il lavoro, il contrappunto sotteso di Will Frisell dona un'eleganza veramente molto importante. Sarà con un trio al Teatro Duse, rassegna Bologna Jazz Festival, tra i concerti appunto che ascolteremo in parte qua nel Jazz Live di oggi, venerdì 20 ottobre. Quello che vorrei sottolineare tra le sedi, anche quella del Must, dove ci sarà un concerto molto molto importante di un sassofonista che si addice particolarmente poi anche a quella sede, eh. Tu tra l'altro per James Brandon hai una grande fascinazione. James Brandon Lewis l'abbiamo visto assieme anche, mi pare, una voce che potente, che qualcuno dice ricorda Pharoah Sanders come potenza. Inizialmente quando stima noi era ancora un musicista in via di maturazione, per sì, adesso devo dire che sentendo gli ultimi dischi si è confermato, si è matura il ragazzo. James Brandon Lewis con il suo quartetto al Must, peraltro no, bellissimo auditorio. Bella sede, no? Solitamente non prenotarsi, credo. Penso che ci sia una grande corsa, perché sì, come vi abbiamo detto, oltre che entusiasmo c'è anche un'importanza di biglietteria che ci porta ad avvicinarci ulteriormente e con un motivo solerte di farlo, ecco. Thomas Morgan al contrabbasso, Rudy Royston alla batteria, Bill Frisell trio, sarà al Teatro Duse martedì 21 novembre. Bill Frisell può fare tutto, ecco, sì, è un ha fatto chitarrista, tutto. Sì, decisamente. Ho voluto fare anche delle altre cose, quindi, ma un giorno farà anche Mumolo, penso, ma che fa tutto il possibile, scibile, immaginabile. Concerti anche in Sala Borsa, il concerto del Master l'abbiamo già citato, poi parleremo anche degli altri teatri e l'illustrazione, un altro aspetto importante. Infatti la prossima puntata avremo Vanni Masala, il curatore di questa, chiamiamola, rassegna nella rassegna, e ci dirà indubbiamente qualcosa di più. Quindi dal 3 al 27 di novembre, e ogni due anni si rinnova la collaborazione con Must per Fotoindustria, quindi faremo anche concerti all'interno della sede dell'Auditorium Must e due negli spazi espositivi in centro città, che saranno, diciamo, una sorta di performance collegata proprio all'esposizione stessa. Come dicevo, anche Città Metropolitana, per cui c'è una new entry che è il Comune di Castenaso, si rinnova l'appuntamento a Castelmaggiore con Condimenti Jazz e ritorna dopo qualche tempo, anche perché il teatro è in ristrutturazione, e quella con il Teatro Comunale di Budrio. È veramente tentacolare. C'è una marea di concerti per tutti i gusti, si abbracciano appunto tanti stilemi, questo che è un poliedrico linguaggio che abbraccia anche altri linguaggi, che è il jazz, diciamo, contemporaneo. E poi ci sono anche tante altre iniziative. Ho già accennato all'immagine coordinata del festival, che quest'anno è stata realizzata da una serie di artiste iraniane proprio sul tema connesso al loro specifico motto Donna, Vita e Libertà, quindi a tutti i movimenti che riguardano questo aspetto, diciamo, sociale, ma che in questo caso è declinato in maniera artistica. E c'è il tema appunto dei capelli, che è ricorrente delle donne iraniane, che si incrociano con il tema della musica, e queste immagini sono particolarmente suggestive. Poi c'è il nostro progetto didattico, che ha varcato abbondantemente i 10 anni, questa è l'11ª edizione, che coinvolge prevalentemente il liceo musicale Ciolalla di Bologna, ma anche il Conservatorio Martini di Bologna, con tante iniziative che si sono svolte già nel corso dell'anno, ma che poi si concludono soprattutto e convergono nel novembre del mese del festival. Abbiamo fatto un workshop piuttosto articolato tra fine giugno e i primi di luglio proprio presso la sede del liceo musicale e rivolto agli studenti dello stesso. Ne abbiamo organizzato adesso i primi di novembre uno specifico sia per loro che per Martini, con un grande pianista statunitense che è Bill Carothers, che starà in residenza in città di Bologna tenendo questo workshop, che poi sfocerà in un saggio finale. Gli allievi, sempre con il Martini, e in apertura di festival collaboriamo a una messa punto di uno spettacolo dedicato alla figura di Miles Davis e Gil Evans, con la big band del conservatorio e ospite Alessandro Presti, giovane talento del jazz italiano. Questa residenza artistica fa sempre parte del progetto didattico, così come la residenza artistica sia della Tower Jazz Composer Orchestra a Ferrara che della band Scientific Italians, che sarà uno dei concerti che andrà ad aprire uno dei 5 principali in abbonamento del festival. Grande musica su Radio Città Fujiko, rientrando in diretta, l'abbiamo anticipata, interrompendo anche la conversazione con Francesco, come volessimo presentare noi questa apertura con una grande pianista che è Iromi, la stiamo ascoltando. Che noi tra l'altro, Willy, ascoltammo insieme al Teatro Comunale di Ferrara. La cosa Ferrara. Mi colpì inizialmente che lei tra tacchi, altezza e una sorta di cofano sulla testa degna di Maggie Simpson era altro 1,40. Sì, e però... poi dopo mi ha sconvolto la grandezza sul pianoforte. Sì, non nelle volte che... piccole... ma perché non solo nel virtuosismo chissà che è quasi acrobatico, ma oltre a questo, che comunque è stupefacente, anche per un'intensità compositiva notevole. Forza delle donne, la rassegna, oltre che una presenza importante, fondamentale al Bologna Jazz Festival, ovunque e comunque nell'illustrazione con queste ragazze iraniane che hanno dato vita a immagini appunto con la figura di queste ragazze dai capelli sciolti o a volte legati, no? Sapete, l'iconografia dei capelli anche come gesto di libertà, che improvvisamente prendono la forma di strumenti musicali, acconciature che diventano sassofoni, clarinetti, contrabbassi. Bassi, è molto particolare. Ma guarda che i capelli sono un simbolo di libertà incredibile. Tu pensa, oltre all'Iran e il coraggio incredibile di queste donne meravigliose, pensa anche alla battaglia dei giovani contro il Vietnam, la guerra del Vietnam. Beh, gli c'è anni... il musical Hair. capelli lunghi sono sempre un segno di libertà. Io non ne ho tanti, ma, mi sto impegnando. Ma non perché cadono da soli. Portato non a caso Gil Evans e Miles Davis, sentito, sono protagonisti del progetto che il Bologna Jazz Festival fa con il Martini, la dedica a Gil Evans, appunto. A Gil Evans, e quindi abbiamo anche questa attinenza, sono ovunque Gil Evans e Miles Davis. Altri progetti paralleli che noi seguiamo regolarmente, è molto contento, se ne avrà la possibilità tra i tanti impegni, di essere presente in tutte le sfaccettature di Jazz Insight di Emiliano Pintori. mitico Pintori. Arriverà anche. Ne sa uno Pintori, più del diavolo, diretti, Pintori, sa tutto, sì, di tutto, sì. Incredibile. Prossima puntata daremo spazio anche al club del binario 69 con Luca Livoti, direttore artistico, come ho detto in precedenza. Concludiamo la nostra prima parte di conversazione con Francesco e poi vi diamo appuntamento anche per quelle che sono le voci che vanno a complementare in maniera importantissima e fondamentale questa edizione. Un'avvertenza, come sempre le cose che diciamo sono tante da ubriacare. Bravo Alfredo. Allora, ci sono due possibilità. Quella chiaramente di andare sul sito del bolognajazzfestival.it, che c'è tutto il programma, se ne approfondimenti, oppure quando scatterà il festival passo passo come ogni anno Radio Fusico, che è media partner del Festival del Jazz, proporrà appunto i protagonisti, i programmi, dove trovarli, quando e come dove, quindi non c'è da impazzire, basta stare un po' su. È lavoro d'Alfredo questo, sì. Digitale, informatico, per cui attenzione. E cominciamo con la presentazione del nuovo disco di un'apprezzatissima pianista nipponica, ma di base negli Stati Uniti, che si chiama Hiromi, che molti appassionati conoscono, al Teatro del Sole il 7 di novembre. Poi si prosegue con un musicista fondamentale nella storia del jazz, dei canoni del jazz americano, che è il maestro Ron Carter, con il suo quartetto, al Teatro Auditorium Manzoni il 12 di novembre. E proseguendo poi il 17 di nuovo con una figura di spicco del jazz al femminile, appena vinto 2 Grammy, pur essendo giovanissima ormai si è affermata su scala internazionale, Samara Joy, al Unipol Auditorium il 17 di novembre. Il concerto del trio di Bill Frisell, anticipato da quello della Scientific Italians, che è una band che nasce proprio su un lavoro di scrittura, riscrittura, riarrangiamento di composizioni di Frisell, quindi una giornata totalmente dedicata a Bill Frisell, sia in prima persona che di rimbalzo rispetto al progetto di Scientifics, 21 di novembre al Teatro Luse, e poi Coleman, quindi uno sguardo diciamo ai territori più contemporanei, con il suo trio Reflex il 24 di novembre all'Unipol Auditorium. Una bella chiusura in sala borsa con il piano solo di Sullivan Forner, una sorta di nella primissima fase concerto la Big Band del Conservatorio con Alessandro Presti, seguito subito dopo dal solo di Bill Carter che faremo al Camera, approfittando di questa residenza, ma poi sono veramente tantissime le iniziative. Citerò anche il concerto diciamo tra i più importanti, quello al Master Auditorium di James Brandon Lewis con il suo quartetto. Per il resto nomi su nomi, e corrispondono anche un po' alle linee di programmazione di tanti luoghi che vanno a ospitare il festival, per cui noi facciamo un'operazione prevalentemente di coordinamento e di co-promozione di iniziative che hanno già una loro natura nello spazio in cui vengono ospitate, per cui Locomotive ha la sua linea, sì, e avrà artisti giustamente che sono perfettamente adatti al palco del Locomotive, da Alphamist a Cassa Overall, idem dicasi dello Sghetto, del Binario, del Camera, che è più attrazione di modern jazz, così come la Cantina, che ospita anche progetti suoi originali, il programma del Jazz Club di Ferrara, che ha sempre una sua specifica identità, e il bel programma del Festival Jazz di Forlì, che siamo contentissimi di avere come partner gemellato e che apre proprio il 3 con un concerto di una superstar come John Scofield. Io ti ringrazio tantissimo e buon festival, buon lavoro anche. ne ho bisogno di un bocca al lupo perché di buon lavoro. Grazie. Con un last but not least, Steve Coleman. Io ho avuto un dubbio che Bettini mi ha sciolto. Di Steve Coleman o Steve Coleman? Coleman, io sto a Bettini. Coleman, ecco. Coleman. È più facile anche per noi. Ma che bella sta band music. Sì. Comunque ricordiamo che oltre che Coleman ci sarà anche Greg Osby, altro rappresentante, sì, dal tempo della M-Base al Torrione, se non vado errato. Sì, ma è appunto di questo. Ne parleremo. È la prima puntata questa. Ce ne saranno. Presentazione in linea generale. I vari segmenti seguiranno. Al venerdì il Festival Jazz. È solo su Radio Città Fusico. Ma dove altro? Siccome inizia più avanti, avremo tempo anche venerdì prossimo con altre voci di dare linee generali. Ricordo intanto che Steve Coleman, che stiamo ascoltando, sarà al Unipol Arena. No, aspetta, adesso non confondo la sede perché ce ne sono talmente tante, e soprattutto il programma qui è quanto mai variegato ed è scritto anche in piccolo. Però avremo dunque al Unipol Auditorium. Unipol Auditorium. Non hai sbagliato. Non ho detto auditorium. Con Rick Brown e Sean Rickman. Ricordiamo anche Samara Joy, che è questo talento, che invece sarà anche all'Unipol Auditorium, però martedì 17 novembre. Il 24 novembre Steve Coleman, che stiamo ascoltando, e che è la nostra sigla di conclusione, per darvi appuntamento a venerdì prossimo con altre voci, altra musica legata al Bologna Jazz Festival in linea generale di presentazione. Poi seguiremo passin passino con le voci dei protagonisti sul palcoscenico del Bologna, il Jazz Club di Ferrara con il Weekend che seguiamo già dal Jet Live, come ogni venerdì dalle 11.30 alle 12.30. Ma che bella puntata! Ma che bella puntata! Ma che bella puntata! Grazie per l'attenzione! Ciao Willy, ciao a tutti! Weekend bellissimo, buona musica, buon jazz, ciao!